che si fa? Boh, cosa c'è da fare? Ho sentito che c'è una festa. Festa, fiesta, pista, fischia, lista di nicchia per gente tranquilla. Come sono messo male. Con stabbigliamento poi non posso entrare. C'è una vista nebbiata da inizio serata. La vita privata è da canne per strada. Ma rischia chi fissa da stereotipista. La lista è già vista con il mio analista. Spendi, che puoi tirare. Spendi, che puoi comprare. Prendi, quel che ti pare. Spendi, che non è male. Cerca di non fare pacchi, di non collegarti con gente che ha cazzi più grandi dei sacchi distanti dagli altri ragazzi coi pasti pesanti di parenti strambi. Panico, fa paura, chiappa le mani, è sventura. Mi sono perso tra queste mura. La cassa si muove e mi sale la sturia. Tu volevi che mi limitassi. Siamo quattro gatti, pantaloni larghi, bag da invidiarci. Sporta a cavalli, ma ho perso i contatti coi fatti dei fatti. Riguardati, riguardaci, riguardo a noi. Siamo fatti così, con la forza di chi non ha nulla da dire. Bella zi, Pippa sto lì, vinci da vinci. Ezzo dici, non riesci a parlare ma c'è troppi amici. Ed amici di amici che pagano lì. C'hanno villa vicina e una casa a Parigi. Senti, che puoi tirare. Prendi, che puoi comprare. Prendi, quel che ti pare. Che non è male. Alle volte non capisco un cazzo, ma non è normale che poi ci ricasco con lo sguardo basso, sotto braccio un altro. Trova faccia di cazzo se sbocca con l'asso. Sono visti con i biciclismi, crisi di sfizi, visi già visti. La mascella che non serve il lifting. Se ci vai sotto dopo niente dindi. Pullola di bambù, vada boom boom boom. Boom, c'è la bamba in tour. Dai, gusta la TV, sarà banda in blu. Vedi cose strane anche tu. Dimmi di più sulla crew con la Z del mezzo. Questa tribù di artisti strani con l'accento grezzo. Sono miliziani eppure in testa non hanno l'elmetto. Loro combattono col verbo ed hanno il tempo dentro. Estate d'inverno, col caldo e col freddo, all'aperto al coperto, un estro di genio. Mi sente a convegno che parlano di fare meglio. Niente più feste, niente serate, niente bimbette, solo maiale. Champagne e caviale non sarebbe male, ma prima di tutto che si fa male. Spendi, che puoi tirare. Spendi, che puoi comprare. Prendi, quel che ti pare. Prendi, che non è male. Spendi, che puoi tirare. Spendi, che puoi comprare. Prendi, quel che ti pare. Prendi, che non è male. Dimmi di più sulla crew con la Z in mezzo. Questa tribù di artisti strani con l'accento grezzo. Sono miliziani eppure in testa non hanno l'elmetto. Loro combattono col verbo ed hanno il tempo dentro. Dimmi di più sulla crew con la Z in mezzo. Questa tribù di artisti strani con l'accento grezzo. Sono miliziani eppure in testa non hanno l'elmetto. Loro combattono col verbo ed hanno il tempo dentro. Non so, quasi quasi. Oh, ma non andiamoci a sta festa. No, non andiamo.